A cortula illa. A femmina cortula illa è la femmina più bella. Fuoco e mungofire e calore dentro e vena che la cosa è chiura la graunella. O piette sempre china che l'uomo si fa quasi n'inchina. Eppure poche pazzerelle. L'uomo va 3 anni cercando per s'anzurà. Perché si sa che lo stipo senza piatto non si può firà. A corturella felice e contento, so porta a casa per far figlietto molella.